Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Morena Rossi. Dove correte? Dove andate? Che... hanno sparato gli altri! L'hanno mangiato! Non lo so! È la rivoluzione! Corri, Simoni! Silvio! Ma dove vai? Vieni qui! Era la vacca! Se chiudi di dentro! È il 14 luglio, una data che sa di rivoluzione, come ricorda Alberto Sordi nella pellicola di Dino Risi Una vita difficile. Ed è il 1948, un anno che per l'Italia ha il sapore della libertà, vista anche la recente conquista della Costituzione. Il bel paese vive però drammaticamente diviso in due, a pochi anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, tra bianchi e rossi, tra democristiani e comunisti, tra l'influenza americana e quella russa. L'attentato a Palmiro Togliatti, leader del Fronte Popolare, non può che gettare la giovane Repubblica nel caos. L'incontro di cui parliamo oggi è quello che avviene all'ombra di una imminente guerra civile dopo i fatti di quel caldissimo 14 luglio tra uno statista e un ciclista. Nel loro incrocio non si assiste a una svolta personale, ma alla svolta di una nazione intera. Partiamo dall'inizio. L'unità d'Italia, che coincide per qualche strano caso alle origini della bicicletta, quasi a suggellare prima del tempo gli eventi che andiamo a raccontare. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue. Articolo unico. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino a D, 17 marzo 1861. Sono le parole che si leggono nel documento della legge numero 4671 del Regno di Sardegna e valgono come proclamazione ufficiale del Regno d'Italia. Il 21 aprile del 1861 quella legge diventa la numero uno del Regno d'Italia, quella che Metternich una quindicina d'anni prima aveva definito un'espressione geografica e ora una nazione, anche se ancora per certi versi isolata in molte zone. Tra le cause, una rete viaria piuttosto carente, che l'allora ministro dei lavori pubblici De Vincenzi cerca di ampliare, perché le strade sono importantissime, come confermano le sue parole. Niuna cosa ha maggiore influenza sulla produzione di un paese che la viabilità. Le strade vivificano l'agricoltura, creano l'industria, danno origine ai commerci. La statistica delle strade è la statistica della ricchezza di un paese. Dal 1864 al 1904 la rete viaria italiana passa da 22.500 km a 26.100 km. Ed è su queste strade che allacciano rapporti e legami tra vecchi paesi e nuovi italiani che si muovono con equilibrio incerto le prime biciclette, mezzo di trasporto sul quale è bene fare una breve storia. Tutto succede nell'arco di poco meno di 100 anni, dalla fine del 700 alla fine dell'800. Difficile ammetterlo, ma è stato un francese a pensarci per primo, il conte Med de Sivrac, che in piena rivoluzione trova il tempo di brevettare e costruire una strana macchina che battezzerà velocipede o celerifero. Si tratta di un'asta di legno montata su due ruote, alla quale viene impresso il movimento con la spinta dei piedi. Forse l'esigenza di trovare un mezzo veloce per scappare dalla ghigliottina gli ha facilitato il lavoro. Nel 1817 è la volta di un tedesco, il barone Karl von Drais, che brevetta la Draisienne, italianizzata Draisina, con ruota anteriore sterzante e molto più grande della posteriore, ma ancora senza pedali. Nel 1861 Ernest Michaud, lavorando nell'officina meccanica del padre, pensa di montare i primi pedali alla sua Draisienne fissandoli al perno della ruota davanti. Da questo momento in poi, da quel fatidico 1861, il termine per indicare questa stranissima cosa composta da due ruote, una posteriore piccola e una molto grande davanti, dotata di pedivelle, tenuta insieme da una specie di telaio e un sellino posto sopra la ruota anteriore, sarà biciclo o bicicletta. 150 anni da quella prima parola, bicicletta, e 150 anni della nostra storia d'Italia. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia e il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica, una bici si declama. come una poesia per volare via. La bicicletta al suo inizio non è ancora un mezzo agevole da manovrare, anche per il peso di ben 30 kg, e le cadute non risparmiano nessuno. Poco dignitose gambe all'aria portano al divieto dell'uso della bicicletta per le donne, per i sacerdoti e per gli ufficiali. Fortunatamente, a rendere tutto molto più confortevole in sella è l'invenzione di un veterinario scozzese, John Boyd Dunlop, che utilizza al posto delle gomme piene tubi di para vulcanizzata gonfiati ad aria. Sono i primi pneumatici ed è il 1889. Quello stesso anno l'Italia perde un suo grande inventore, Antonio Meucci, che con un connazionale di Dunlop, Alexander Graham Bell, si contende un brevetto, quello del telefono. A distanza di anni si può ammettere senza scontentare nessuno che l'invenzione del trasferimento elettrico della voce è italiano, mentre il trasferimento di corpi su ruote più morbide è scozzese. Se la bici diventa un po' più comoda e meno rigida, anche gli italiani cominciano a sentirsi un po' meno incerti sulla strada del consolidamento della nazione. Ci si comincia a spostare dalle campagne alle città. Del resto, la modernizzazione del paese passa anche attraverso questo. Il collegamento con i villaggi sperduti e arretrati ha perciò una valenza sociopolitica, non solo di efficienza dei trasporti. Mentre scarpe impolverate di curati, messi, postini, operai spingono sul pedale senza sosta per avvicinarsi a un nuovo orizzonte, sullo sfondo, Marinetti è alle prese con il manifesto futurista. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Ed è proprio la velocità, anche se quella silenziosa della bicicletta, e non quella ruggente dell'automobile, che ci accompagna in questo viaggio verso l'Italia del secondo dopoguerra e al nostro incrocio di destini. È l'Italia del XX secolo, giovane, che corre verso la sua definizione, in piena rivoluzione industriale, dove la situazione di relativo benessere è turbata dagli scioperi massicci di una parte della massa operaia sempre più numerosa e scontenta, nonostante l'avvento dei governi della corrente liberale di Giolitti. La bicicletta è un sogno per le famiglie e la possibilità di potersi spingere lontano a cercare lavoro, anche se a basso costo e senza nessuna garanzia, ma pur sempre lavoro. La bicicletta sembra essere l'unico vero simbolo di democrazia. In tutto questo pedalare non tardano ad arrivare le competizioni. Sono gli albori del ciclismo, che prima di essere uno sport è una necessità sociale, come recita un manuale del 1910. Il mito del ciclismo in quegli anni è vero, genuino, è fatto di eroi che si possono toccare, e l'Italia sta per toccare anche le due guerre mondiali. In sella a quelle biciclette aspre, dure, ci sono portaordini, curati di campagna, infermiere e operaie, ma anche gli eroi del Giro d'Italia. Girardengo, Girardengo, delle folle beniamine. La prima guerra mondiale finisce e nell'aria c'è già odore di fascismo. Mentre Girardengo sfida i cugini d'Oltralpe, a Parigi, al Vélodrome d'Hiver, il suo più accanito sostenitore, Sante Pollastri, viene preso dalla polizia. La sua è una storia che con la bicicletta e la situazione economico-sociale del paese è legata a filo doppio. Come dice De Gregori nella sua canzone Il campione e il bandito, dedicata proprio ai due amici di Novi Ligure, fu antica miseria o il torto subito a fare del ragazzo un feroce bandito. Una cosa è certa, la sua passione per il ciclismo lo fa cadere nelle mani della giustizia quel 1925. In quegli anni, nella periferia fiorentina, a Ponte Aema, un bambino di appena 9 anni sta cominciando a capire che forse pedalare è anche il suo futuro. Il suo nome è Gino Bartali. Gino Bartali. L'Italia si affolla nelle strade per vedere questi giovani in sella alle loro bici, e Gino fa lo stesso, mentre si fa affascinare dal ciclismo che è in primis poetico, ma anche epico. Tutti si sentono partecipi della fatica dei corridori che lottano per raggiungere la meta. Nasce proprio allora, guardando quegli eroi, la sua voglia di non smettere, di dare sempre un'altra pedalata, come si ricorda nel film prodotto dalla Rai, dove Pier Francesco Favino interpreta il ciclista toscano. Non sono le gambe, è la voglia. In montagna uno pedala, pedala, a un certo punto ti manca il fiato. Le gambe ti fanno male da morire, dici io smetto, basta, mi ritiro. Quello lì è il momento della voglia. Che voglia? La voglia di dare un altro giro di pedale. Poi dopo quella pigiata ne viene un'altra, poi un'altra, ancora ti torna alle forze. E così è la voglia. quella voglia che lo porterà a non mancare all'appuntamento con la storia. Lui, scalatore caparbio instancabile. Lui, l'uomo di ferro che saprà dare una speranza a un paese in crisi. Lui è quel naso triste da italiano in gita, come lo immortalerà per sempre il testo di una celebre canzone. Tra gli occhi allegri da italiano in gita, i francesi che si incazzano, che le palle ancora gli girano. La carriera di Gino Bartali comincia nel 1935. Nel 1936 fa il suo Giro d'Italia, l'anno successivo replica e nel 1938 è la volta del Tour de France. È un campione, non ci sono dubbi. La sua indole è piuttosto irruenta, uomo vero, a volte duro, brontolone, ma più per spronarsi e per fare sempre meglio, ad andare oltre i propri limiti che per il semplice piacere di lamentarsi. Sempre pronto a ripetere con il suo accento toscano «gli è tutto da rifare, gli è tutto sbagliato», il suo carattere spigoloso gli varrà tra i tanti nomignoli quello di Ginettaccio. Ma anche lui, alla fine degli anni 30, è ormai tra gli idoli di tutti. Il garzone di bottega o il fornaio, che usano la bicicletta per portare in giro la spesa e pedalano pensando a lui e a quelli come lui, si sentono vicini alle sue vittorie. Se i corridori vincono pedalando in gara, vincono un po' tutti pedalando nella vita. Questo si pensa tra la gente comune. Anche se vincere in quegli anni sta per assumere un significato piuttosto nefasto nelle parole che arrivano dalla finestra di Palazzo Venezia. Combattenti! Di terra, di mare, dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiere, compatta, come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i fuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! La Seconda Guerra Mondiale riempirà le strade di macerie e le famiglie di lutti. Bartali, con la sua resistenza fuori dal comune, la sua forza di testa e di gambe, perché di questo si tratta, è l'uomo giusto anche durante il conflitto. Non solo partecipa alle poche gare che ancora si corrono, ma comincia col dare il suo contributo alla storia del paese, pedalando da Firenze ad Assisi per salvare gli ebrei dal fascismo, come racconta Paolo Alberati, che sul campione ha scritto una biografia. Si prestò per una organizzazione appunto clandestina che doveva salvare degli ebrei, e questa organizzazione, che faceva capo all'arcivescovo di Firenze, Monsignor Dalla Costa, aveva un importante costola qui ad Assisi, perché il vescovo Placido Nicolini di Assisi, il vescovo di allora, aveva messo in piedi insieme alla famiglia Brizzi dei tipografi in Assisi, una tipografia che stampavano documenti falsi. Bartali partiva da Firenze con le foto di questi ebrei, le portava nella stamperia di Assisi in mattinata, e il pomeriggio ripartiva e riportava i documenti già falsificati, nascondendoli nella canna della bicicletta. Leale, forte e senza aver paura ad esagerare mai, come nei ricordi color seppia delle foto che lo ritraggono giovanotto d'allora. Questo è Bartali. Ma anche la Seconda Guerra Mondiale arriva alla sua fine, come si sente con sollievo nel comunicato radio che risuona in tutte le case degli italiani. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Il 25 aprile del 1945 le città vengono liberate dai partigiani prima dell'arrivo delle truppe alleate e il 10 dicembre dello stesso anno il leader della Democrazia Cristiana diventa presidente del Consiglio dei Ministri e Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi. Adesso si tratta di ricostruire materialmente la nazione e di dare basi democratiche allo Stato italiano con libere elezioni. Come dirà lo stesso De Gasperi. Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto. In ciò consiste il regime di libertà. Quella del dopoguerra è l'Italia minacciata dalla carestia che aspetta il grano dalle navi americane. L'Italia delle signorine che si svendono ai soldati venuti a liberarci dal nazifascismo. L'Italia degli shushai, lustrascarpe, gli show shine. Ma è anche l'Italia dove tutti gli italiani e tutte le forze politiche sono unite, come ricorda Nil De Jotti. Per me, e poi verificai che la stessa cosa era anche su tanti altri giovani della mia età, a quell'epoca giovani naturalmente, era stata la stessa impressione, cioè di un grande fatto morale, questa unità per liberare l'Italia dai tedeschi e liberarla dal fascismo, un grande fatto morale che immediatamente ci ha conquistato. È anche l'Italia di chi monta in sella la propria bicicletta una calda mattina di fine primavera e si rende conto che la strada che scorre veloce sotto le sue gomme potrebbe non avere lo stesso significato al ritorno a casa. È il 2 giugno del 1946. Repubblica o monarchia? Non solo. Al referendum istituzionale si affianca pure l'elezione dell'Assemblea Costituente. Appuntamenti con la storia, ai quali chi abbia compiuto i 21 anni di età è chiamato a rispondere. In ogni famiglia il rito è lo stesso. Una spuntatina ai baffi, biancheria pulita preparata dalla moglie sul letto, giacca, gilet e pantaloni. Un colpo di spugna sulle scarpe impolverate e via verso il seggio. Prima di uscire, due sono le cose che un uomo non deve scordare. Una difficile farlo, poiché è così abituale, cioè prendere il cappello. L'altra assolutamente nuova per l'occasione, quindi più esposta all'errore. Aspettare anche lei. Sì, perché anche le donne sono chiamate per la prima volta alle urne. I leader politici e altri pochi fortunati arrivano in auto e i cinegiornali documentano il momento solenne. Palmiro Togliatti vota Frascati. Alcide De Gasperi vota in via delle Fornaci. E la votazione deve essere continuata fino al mezzogiorno di lunedì per far fronte alla enorme affluenza di elettori. Pietro Nenni vota in una sezione della più lontana periferia di Roma. Il re Umberto II passa quasi inosservato quando va a votare in un seggio vicino al Quirinale. Nel pomeriggio del 4 giugno si annuncia che la Repubblica ha un vantaggio di 1.800.000 voti, ma i monarchici parlano di brogli. Si dovrà attendere il giudizio della Corte di Cassazione che nella Sala della Lupa a Montecitorio il 10 giugno 1946 leggerà i voti definitivi. Monarchia 10.709.423 voti. Repubblica 12.718.019. La Suprema Corte di Cassazione proclama gli aridi ma storici risultati del referendum istituzionale. Due macchine calcolatrici, addizionando delle cifre, scrivono le prime parole del nuovo destino d'Italia, che si chiama Repubblica Popolare e Democratica di tutti gli italiani. Sul Campidoglio sventola il tricolore repubblicano. La strada che passa sotto alle gomme delle bici al ritorno a casa, quel 2 giugno 1946, non è davvero più la stessa. Le biciclette, lontani ancora ai tempi dall'essere soppiantate dalle auto, sono il mezzo di trasporto più diffuso e fanno lo slalom tra i resti degli edifici abbattuti e le possibilità di ricostruire un futuro. E anche le biciclette del Giro d'Italia, interrotto negli anni della guerra, possono ricominciare a essere ingrassate a dovere. Il primo Giro d'Italia del dopoguerra, quello del 1946, verrà ribattezzato il Giro della Rinascita e se lo aggiudicherà proprio Bartali. Né lui, né tantomeno De Gasperi, ancora sanno quanto stanno per legarsi le loro vite con la storia d'Italia. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridano tutti ai thank you. Destini incrociati. Dopo la vittoria al referendum del 2 giugno del 46 della Repubblica sulla monarchia, l'Italia cerca la sua strada verso la ricostruzione. A guidare il governo c'è il democristiano Alcide De Gasperi, anche se tutte le forze politiche cercano di unirsi. È il periodo della Costituente, durante il quale si respira un'unità antifascista, una boccata d'ossigeno dopo le brutture del ventennio. La Costituzione, infatti, è il frutto di un singolare e meraviglioso incontro. L'incontro tra due solidarismi, come li chiamerà Palmiro Togliatti, quello cattolico e quello socialista. A unire il paese c'è anche la bicicletta, che non è solo un mezzo di trasporto, ma una speranza per il futuro. Possederne una significa poter avere un lavoro, potersi spostare con facilità dalle povere campagne alle promettenti città. Il ciclismo con i suoi miti e i veri eroi è lo sport in grado di far dialogare nord e sud e al quale affidare le speranze della rinascita. La bicicletta diventa ingrediente fondamentale per la sopravvivenza nel secondo dopoguerra, come racconta Vittorio De Sica in Ladri di biciclette. Lascia sta, lascio me. E mo me la cico qui. Non voglio un picci, lascio sta. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manco la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì, ma se era per mettere ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Ma va, tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va, manna. Legata alla proprietà del mezzo di trasporto a due ruote, c'è l'intera esistenza del protagonista e tutta la miseria di un paese che sta cercando di rialzarsi. L'Italia è quella contadina piena di senzatetto e di affamati. La disoccupazione è del 19% e metà del meridione è povera. La bicicletta è l'unico mezzo di locomozione, un bene prezioso. La usano gli operai, le mondine, i giovani garzoni di bottega, i postini, i parroci, i metronotte, per non disturbare la gente che dorme. La usano tutti. Ne circolano 3 milioni e pur di averne una si escogita qualunque tipo di truffa. Il ciclismo non può che essere lo sport che più appassiona gli italiani. La bicicletta ha l'amore di tutti perché è cosa di tutti. Gino Bartali ormai è sempre più alle prese con il suo grande antagonista. Fausto Coppi! La loro è qualcosa di più di una semplice rivalità. Quelli di Bartali e Coppi sono due mondi diversi, due pianeti che si sfiorano solo sulle salite impolverate del Giro e del Tour. Da una parte l'atleta toscano, Gino, che interpreta i sogni della sponda moderata, cattolica, della nazione, che corre con grinta, senza arrendersi mai. Dall'altra, Fausto, elegante, bello, dotato di un talento quasi soprannaturale, tirato per la giacca dalla parte delle bandiere rosse. Un antagonismo che ricorda tanto quello che si vive in politica tra democristiani e comunisti e che Guareschi racconta bene nel suo Don Camillo, ritratto quanto mai fedele della netta spaccatura tra la gente di quegli anni. Gesù è disceso sulla terra per riscattare i peccati dell'umanità, per soffrire lui, figlio di Dio, come un semplice mortale. Perciò egli ha scelto di nascere non borghese, ma proletario. Perché solo chi lavora, soltanto chi suda, sa cosa sia la sofferenza. Monsignore, chi si para? I comunisti siamo noi. Il cristianesimo è una religione democratica basata sul lavoro. Universi differenti ma paralleli, di quelli che piacciono tanto al bel paese. Coppi e Bartali rientrano tra quei duelli che poi finiscono comunque per unire affettuosamente, come dimostra una piccola gag fatta tra i due, ironici e veri, al musichiere. Chi è il più grande corridore del mondo di tutti i tempi? Avanti Gino, dillo. Fausto Coppi. Gino Bartali. Tu hai detto? Fausto Coppi. E Coppi ha detto? Gino Bartali. Gino Bartali. Sì. Bravi, capisco, lui ha avuto tante corse, campione del mondo, giri di Francia, è stato campione del record del mondo, ha fatto tante cose per forza, io Fausto lo riconosco il più forte. Ma tu dici, ma pensa un po' tu, hai vinto tante cose, hai vinto il Giro d'Italia, il Giro di Francia, dopo 10 anni. Sì, ma non ho vinto il campione del mondo. Dai, l'uomo di ferro. Sì, l'uomo di ferro, un po' arrugginito, ma niente, ma te sei stato il più forte. Quanto siete carini tutti e due, veramente mi commuovi. Nonostante tutto, anche dopo la morte prematura del grande Fausto, Gino rimarrà sempre legato a lui, all'airone che chiude le sue ali a soli 40 anni. Per il mondo 4 volte contro il vento 2, occhi miti e naso, che divide il vento, occhi neri e seri, guardano il pavè e va su. Ancora e va su. Mentre i tifosi italiani si dividono tra Coppi e Bartali, gli elettori italiani si dividono tra la DC di Alcide De Gasperi e il PC di Palmiro Togliatti. Il 1947 è l'anno decisivo, l'anno che consegna l'Italia all'influenza americana con la missione di De Gasperi negli Stati Uniti. Arrivo in questo momento in Washington dopo un lungo viaggio, ma mi ritrovo fra amici. Penso che questa dimostrazione d'amicizia e di fraternità ispiri anche le discussioni che si faranno per la costituzione di un mondo migliore. Durante il suo viaggio, lo statista italiano consegue un importante successo politico, ottenendo dalle autorità americane un prestito di 100 milioni di dollari, una vera stangata per i comunisti, come dirà il presidente Truman. L'apertura di un dialogo costruttivo tra i due paesi conferisce inoltre la motivazione e il sostegno necessari ad attuare l'ambizioso disegno di un nuovo governo senza le sinistre. I comunisti fuori dal governo, edizione straordinaria, i comunisti fuori dal governo, aperta la crisi, aperta la crisi, aperta la crisi. Sono anni difficili. La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa da poco e l'Italia che si affaccia al 1948, salutato il 1 gennaio con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, è un paese più spaccato che mai. La rivalità non è più quella fra repubblichini e partigiani, sfociata poi nella lotta per la liberazione nazionale, bensì una rivalità più politica, moderna, che riflette al suo interno due visioni del mondo contrapposte. L'inizio della guerra fredda italiana avviene proprio in questi mesi. L'America è ovunque, grazie al primo ponte radio inaugurato da poco, anche nelle case di ogni italiano. Amici italiani, qui è la voce dell'America, per la prima volta in diretta dagli Stati Uniti. La voce che sentite ora è quella di Drew Pearson. Democracy can die, remember. Avete sentito l'avvertimento di Drew Pearson? È il giornalista più famoso d'America. E io vi sto parlando da Bakersfield, dove è arrivato il treno dell'amicizia da lui ideato per ricogliere il segno di simpatia del nostro grande popolo. Farina, latte, burro, marmellata, cioccolato e anche sigarette per gli amici italiani. E questo mucchio è la mucca pazzarella. Questa bella mucca non si fa mungere. E lei a mungere i dollari alle dame di buon cuore e poi raggiunge la banca per depositare i dollari che il treno dell'amicizia vi porterà in Italia. Così si preparano le elezioni del 1948, le prime elezioni politiche della nostra storia, fra le pressioni delle nuove superpotenze statunitensi e sovietiche e una tensione sempre più crescente. Nella propaganda elettorale arriva l'uso strumentale della paura. Da una parte, la coalizione di sinistra accusa gli avversari di essere succubi del Vaticano e degli Stati Uniti. Dall'altra, si cerca di convincere gli italiani che la scelta non è tanto fra due partiti di differenti ideologie, quanto tra Cristo e l'Anticristo, tra l'Occidente e l'Unione Sovietica. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись уголи костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Destini incrociati. L'Italia si prepara al voto del 18 aprile del 1948 in un clima infuocato, che vede diviso il paese tra rossi e bianchi, tra comunisti e democristiani, tra la DC di De Gasperi e il PC di Togliatti. Duelli che piacciono all'Italia e che nello sport hanno la faccia e il talento di Coppi e Bartali, due eroi per la gente, due uomini immagine nell'era pre-pubblicitaria. Dal risultato di quelle prime elezioni politiche scaturirà l'evento che farà incontrare i nostri due protagonisti e che contribuirà a far svoltare la nazione intera. Ultima edizione, eccezionale affluenza alle urne. Il 92% degli italiani ha votato! Stravince la DC! Maggioranza assoluta! A urne chiuse, i risultati elettorali segnano una schiacciante vittoria della DC, che ottiene il 48,5% dei suffragi a fronte del 31% raccolto dal Fronte Popolare. Alcide De Gasperi, trentino di Pieve Tesino, viene di conseguenza nominato capo del governo. Signor Presidente, vorrei inviare attraverso i nostri microfoni un saluto agli italiani che hanno così generosamente risposto al richiamo della civiltà cristiana. Grazie al popolo italiano per questo atto di fede nei destini della patria che furono le elezioni. Sarà questo il viatico per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare. Tuttavia, forti inquietudini continuano a percorrere il paese, esplodendo drammaticamente il 14 luglio. Sono le 11:45 del mattino. Togliatti sta uscendo da Montecitorio in compagnia di Nilde Iotti, quando un giovane siciliano, Antonio Pallante, arrivato in treno a Roma pochi giorni prima, a distanza ravvicinata, spara 3 colpi con la sua calibro 38, colpendo il leader del PC alla nuca e alla schiena. Lo statista viene ricoverato d'urgenza e poche ore dopo la notizia del suo ferimento, l'Italia è nel caos. Manifestazioni di protesta percorrono le strade, i telefoni pubblici non funzionano, le ferrovie si bloccano, gli scioperi fermano le fabbriche, il ministro dell'interno Mario Scelba ordina repressioni spesso sanguinose nei confronti delle manifestazioni non autorizzate. Da Roma in su, ogni città è sconvolta dalla violenza dei manifestanti. Sembra la guerra civile. Fortunatamente, lo stesso Togliatti invita i suoi alla calma, come ricorda Pietro Ingrao, direttore allora dell'Unità. Togliatti viene preso e salendo sulla lettiga e così via, dice quelle parole che contenevano chiaramente un'indicazione politica. Non perdete la testa, che era come dire, badate che il compito non è fare la rivoluzione in questo momento. Sembrava molto chiaro. Quella frase, detta a fil di voce, non perdete la testa, diventa la base sulla quale si tenterà di ricucire lo strappo in Italia. Proprio quel 14 luglio, Gino Bartali si sta preparando per la tappa di montagna del Tour de France, che si tiene l'indomani. La delegazione italiana, che a fine giugno 1948 si è presentata per prendere parte al Tour, è priva di 2 atleti che sarebbero stati sicuramente tra i favoriti, Fausto Coppi e Fiorenzo Magni. La squadra, diretta dall'ormai leggendario Alfredo Binda, punta tutto su Ginettaccio, che ormai 34enne, ben pochi considerano in grado di ripetere l'impresa di 10 anni prima. È troppo vecchio per il Tour, scrivono di Gino Bartali i quotidiani. Il suo ritardo sulla maglia gialla a Louison Bobet è infatti di 21 minuti, un tempo incolmabile. Per lui sembra non ci siano speranze. Buona parte dei giornalisti e dei fotografi italiani al seguito della corsa decidono di far rientro in patria, sia perché per i nostri corridori non sembrano più esserci speranze di successo, sia perché il 14 luglio ed è festa nazionale francese, cioè il giorno di riposo, ma anche perché in Italia sta succedendo il finimondo, come ricorda il giornalista Gigi Speroni. Bartali è in albergo e vede che i giornalisti fanno le valigie. E dice, ma cosa, andate via, non è mica ancora finita, vedete? E dicono, no, hanno sparato a Togliatti. Alla sera di quel 14 luglio, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi fa una telefonata. Telefona ai corridori italiani, li rassicura sulla situazione in Italia. Chiede poi di parlare con Bartali, lui da sempre attivista cattolico, vicino al pensiero del Premier, lui che segue il dogma, a differenza del rivale fedifrago Fausto Coppi, lui che Indro Montanelli ha definito il De Gasperi del ciclismo perché pedala come De Gasperi governa. Lo statista gli chiede di vincere perché qua, dirà lo statista, c'è una gran confusione. È arrivato il momento di tirare fuori la voglia di dare ancora una pedalata, di farcela e perché no, contro tutti i pronostici, di vincere. Non sono le gambe, è la voglia. Gino è ancora più motivato a ribaltare quella sfiducia che gli addetti ai lavori dimostrano nei suoi confronti. Le Alpi sono ormai prossime e il toscano vuole vincere, deve vincere per se stesso, ma anche per cercare di distrarre e placare gli animi degli italiani. Gliel'ha chiesto De Gasperi. I can't refuse her, and now I know that I. destino ha messo sulla strada di Gino Bartali proprio lui, Alcide De Gasperi. E dopo quella telefonata provvidenziale al Tour de France, comincia la sua rimonta. Il popolo italiano, ora più che mai, è con le orecchie attaccate alla radio, non solo per seguire gli sviluppi della rivolta, ma per esaltarsi alle gesta di questo grande campione sul punto di ribaltare una classifica che sino al giorno prima lo dava per spacciato. E lui firma una grande impresa sulle Alpi francesi quel 15 luglio, strappando la maglia gialla a Louison Bobet e candidandosi alla vittoria del Tour, che arriverà il 25 luglio. Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali! Ginettaccio vince per tutti gli italiani, senza distinzione politica. Si conquista ora il nomignolo di intramontabile. Nei giorni che lo separano dal podio, alle sue vittorie oltralpe, si alternano notizie di distensione del clima in Italia. Il 17 luglio la vita torna a scorrere normalmente. Il Corriere della Sera titola «Il paese si avvia alla normalità». Il 19 luglio Togliatti è fuori pericolo e parla agli italiani con toni tranquillizzanti. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Quando il 25 luglio Bartali sale sul podio parigino, la rabbia dei manifestanti italiani si è definitivamente placata. Ad attendere l'intramontabile in patria c'è un'Italia sopravvissuta e contenta. Niente rivoluzione, niente guerra civile. E in più una grande vittoria nel ciclismo sugli eterni rivali, i francesi. Ecco come ricorda lui quel momento a distanza di molti anni. A De Gasperi mi disse: chiedi anche una coppa, quello che vuoi, anche una coppa alta d'oro, così te la facciamo. Tu hai salvato l'Italia. E invece di farmi una coppa d'oro, dissi. E mi fa un ricordo che gli si dà un premio così in denaro. Non si fa, allora non voglio nulla. Una mano invisibile ha dato una spinta al sellino dell'atleta toscano, che è riuscito in un'impresa entrata di diritto nella leggenda sportiva, oltre ad avere contribuito a rasserenare una situazione sociale davvero inquietante, come sostiene lo storico Silvio Pons. Ma io penso che Bartali fu importante. Tutti dicono che no, non è vero, perché sì, ma in realtà sono stati Togliatti e De Gasperi. Dipende da che punto di vista la si vede. Un evento sportivo che alla fine unificava gli italiani ebbe un significato simbolico sicuramente. Anche Giulio Andreotti ricorda il momento in cui arrivò la notizia della sua vittoria in mezzo alle tensioni del Parlamento di quei giorni. Durante la seduta un nostro coltivatore diretto, Tonengo, entrò dicendo: Bartali ha vinto. Allora questo provocò una certa distensione di anni, però insomma. L'Italia è a un passo dal baratro e Bartali, si può dire, la salva pedalando su sollecitazione di De Gasperi. Da allora il ciclismo non è più stato così poetico e leale. Il ciclismo dei miti intramontabili, che Dino Buzzati descrive come cavalieri erranti che partono per una guerra senza terre da conquistare. Allo stesso modo, la politica dei grandi uomini, divisi dalle ideologie, ma uniti dall'esperienza indimenticabile della Costituente. E pensare che basterebbe credere di nuovo nel potere della voglia. La voglia di non smettere. Quella voglia che ha fatto della bicicletta la grammatica sulla quale si è scritto una nuova storia. Una storia che ha unito una volta di più l'Italia. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.